primavera canta, qual è il fulgore del sole d'or. Sento sussurrar dal vento, sente certo armonia. Di felicità questo cuore che t'aspetto e domani forse un dolce sogno ti incatenerà. Ma tu non sai perché il cielo è più sereno, perché lei vive in me, perché dimmi